Si può essere proprietari di uno yacht da oltre 1 milione di euro, esattamente 1.200.000, ma essere sconosciuti al fisco? Si può. La scoperta risale a ieri e fa parte di una delle tante sorprese, si fa per dire, nelle quali è inciampata la Guardia di Finanza monitorando le imbarcazioni da diporto di particolare pregio nei porti pugliesi. Nel corso dell'operazione sono state controllate 963 barche, tra le quali 755 yacht di oltre 10 metri di lunghezza e 286 casi sono stati giudicati di significativo potenziale interesse. Spesso è bastato mettere a confronto il lusso delle barche e le dichiarazioni dei proprietari per far emergere i furbetti. Il colonnello Amedeo Antonucci. È emerso in numerosi casi una sostanziale non congruità fra il reddito dichiarato e, se è dichiarato, ci sono dei casi in cui non è proprio dichiarato, e quindi questi sono casi da approfondire, e il valore dell'imbarcazione o del leasing pagato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.